Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No, mai. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo che su Facebook abbiamo il gruppo e anche la pagina da pochi giorni. Siamo anche su Twitter, siamo anche su radio24.it con il nostro blog e via mail rintracciabile a controluce@radio24.it. Torniamo domani 6:30 a Radio 24.